Le 220 opere sono realizzate da artisti dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, da ragazzi dell'Istituto Palizzi, Istituto d'Arte di Napoli, e da pittori un po' di tutta Italia che sono venuti per l'occasione a Napoli, che sono offerti a dare, a prestare la propria opera per questa diciamo importante iniziativa dell'Etiopia. L'organizzazione Napoli Nostra, che l'associazione è un'associazione di pittori napoletani, ha provveduto ad allestire tutto, diciamo, l'imbarcatura sotto la galleria Umberto I di 200 metri di lunghezza nel doppio senso, e contemporaneamente sono messi tutti lì con lo sgabellino a dipingere sotto gli occhi meravigliati e anche entusiasti di tanti napoletani e tanti turisti che in quel periodo affollavano Napoli. I dipinti sono i più vari, bei paesaggi a diciamo opere informali, opere tipo murales di giovani dell'Accademia delle Belle Arti, diciamo ad opere del futurismo, cioè è un'espressione artistica molto varia e anche molto bella per questa. Non era un unico soggetto, era libera, diciamo, l'interpretazione dell'opera. E adesso c'è la mostra di queste opere a Palazzo Reale con l'inaugurazione il giorno 8 e che proseguirà per 3 giorni in esposizione, dopodiché queste opere andranno all'asta e per tutti chi è interessato a intervenire o a dare un contributo per questo progetto, e il ricavato va tutto devoluto per il progetto per il recupero di 360 bambini dell'Etiopia, ragazzi di strada. Partecipare all'asta che si terrà nei giorni 11, 12 e 13, perché è una bella occasione per acquistare un quadro di valore, e diciamo partendo da un prezzo minimo che si mette giustamente per finanziare questo progetto.